Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Leo Muscato per presentare il suo film La Rivincita, da giovedì 4 giugno 2020 su Rai Play. Leo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, contento di essere in vostra compagnia. Che storia racconti nel film? Ma questa è una storia che parte da lontano, parte dal 2014, quando insieme a Michele Santeramo abbiamo pensato ad uno spettacolo teatrale da mettere in scena. E lo abbiamo costruito in pochissimo tempo, una storia molto forte che racconta di un sud, di una Puglia molto poco da cartolina e che in sé contiene proprio in nuce delle tragedie profonde ma trattate con estrema ironia. Poi quel testo teatrale è diventato un romanzo scritto da Michele Santeramo, successivamente siamo poi passati alla sceneggiatura e adesso finalmente riusciamo a far vedere questo nostro lavoro a molta più gente con un altro mezzo di comunicazione. Com'è stata la trasposizione dallo spettacolo al libro e poi dal libro al film? L'ultimo passaggio cosa ha comportato rispetto al materiale iniziale? Ma ovviamente hai a che fare con un linguaggio completamente diverso. Il nostro lavoro è quello di raccontare delle storie e ovviamente ogni mezzo che utilizzi ha delle regole molto diverse, laddove in teatro deve vincere la parola e l'azione esercitata dagli attori in palcoscenico. Sulla pagina scritta del romanzo ovviamente è la parola e il rapporto tu per tu fra l'io narrante e il lettore, e qui nel film devono vincere le immagini, il movimento, e le azioni e gli eventi che si susseguono, quindi è un linguaggio completamente diverso, ma paradossalmente la storia che raccontiamo è pressoché la stessa. Ci sono ovviamente delle rinunce a cui bisogna fare perché il cinema è un mezzo diverso e ma questo non ci ha impedito comunque di raccontare una storia anche molto feroce, perché poi alla fine i protagonisti sono dei personaggi che potremmo incontrare nella vita reale di tutti i giorni, anzi siamo circondati e tragicamente non ce ne rendiamo conto perché non riusciamo ad avere uno sguardo attraverso molto spesso, perché sono i nuovi poveri e tragicamente questa condizione che stiamo vivendo attualmente ne ha creati ancora di più di quanti già non ce ne fossero in un paese globalizzato come il nostro. Sono persone che sono disperatamente attaccate agli euro, ai pochi euro di cui hanno bisogno per arrivare a campare, cioè 10-20 euro in tasca fanno una differenza enorme. E a questi personaggi, come in realtà sono due fratelli, Vincenzo e Sabino, le loro rispettive mogli e il figlio, un bambino di uno di loro, è come se fossero in realtà un unico nucleo familiare che è costretto a combattere veramente contro delle forze del male che arrivano dalla quotidianità di tutti i giorni per poter ottenere banalmente le cose normali, e cioè la dignità di un lavoro, la dignità di poter andare a fare la spesa senza dover elemosinare i centesimi e anche la possibilità di avere un figlio, perché è uno degli eventi più importanti del film, che sarà un accadimento dell'inizio, che una coppia è costretta a rinunciare ad avere un figlio proprio perché non se lo può permettere. Un figlio è una cosa normale, dice la moglie, e noi le cose normali non ce le possiamo permettere più, gli dice il marito. Prendono una decisione che poi segnerà tutta la loro esistenza e tutta l'esistenza, insomma, tutta la ragione d'essere alla storia che vogliamo raccontare. Proprio rispetto alle immagini in movimento, su quali elementi hai voluto centrare l'attenzione? Ma noi raccontiamo di una terra avvelenata, raccontiamo di una terra avvelenata dagli uomini, in realtà questa terra che avvelenano si ritorce contro, perché alienassero se stessi. Infatti questa terra poi mette il protagonista nella condizione di non poter più avere figli nel momento in cui questi veleni, no, utilizzati nella terra, che uno dei protagonisti è un contadino, li mette nella condizione di dover fare dei salti mortali per riuscire ad ottenere poi quello che vuole. E per poterlo raccontare questo qui siamo andati davvero a cercare delle immagini assolutamente anticonvenzionali rispetto a come spesso viene raccontata la Puglia, che è una regione meravigliosa, bellissima, incantevole da certi punti di vista, ma noi abbiamo preferito, per amore di logica del film, raccontare degli angoli un po' più bui, un po' più neri, un po' più nascosti. Avremmo potuto raccontare questa storia in qualunque altra terra marciscente italiana e non solo. La storia avrebbe funzionato lo stesso. È un commento del produttore Cesare Fragnelli, quando ha letto per la prima volta la sceneggiatura, ci ha fatto molto riflettere, a me e a Michele Santermo. Mi disse: guardate, questa storia la potete anche ambientare su Marte, funzionerebbe lo stesso. E aveva ragione lui. Quando poi vai a guardare il film non la riconosci la Puglia così per come ce la immaginiamo, ma è una terra di mezzo, ecco. Su RaiPlay, ecco, che tipo di distribuzione avete pensato, di visibilità per il pubblico? Questa è una grande opportunità che ci è cascata in questo momento sulla testa. Noi saremmo dovuti andare al B-Fest di Bari, eravamo in concorso, dopo era prevista un'uscita nelle sale il 7 maggio, e il 7 maggio scorso, però insomma, la cronaca ci ha impedito, no, questo processo naturale per ogni film. E il fatto che RaiPlay ci abbia selezionato fra le quattro opere inedite prodotte da Rai Cinema per mandarlo su questa piattaforma, insomma, veramente abbiamo la sensazione che questo ci possa mettere nelle condizioni di fare molti più numeri rispetto a quanti non avremmo potuto fare probabilmente nelle sale cinematografiche, perché è una piattaforma che adesso è in totale lancio e ha una visibilità, sta cominciando ad avere una visibilità molto importante, anche spinta da dei grandi progetti che RaiPlay ha messo in campo. Viene da pensare a spettacoli di intrattenimento come quello bellissimo di Fiorello qualche mese fa, poi quello documentaristico legato al viaggio in Sud America di Jovanotti, adesso sta aprendo anche il cinema e pare che i film che hanno preceduto la messa in onda di questo nostro stiano avendo un successo molto importante, di cui loro sono molto contenti, e speriamo che questo possa fare da volano anche per una visibilità al nostro film. La Rivincita, da giovedì 4 giugno 2020 su RaiPlay. Un saluto e un ringraziamento al regista Leo Muscato. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, buon tutto, grazie. Con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema per presentare Wanted Zone, la sala virtuale online di Wanted Cinema. Anastasia, ben trovata. Ciao, ciao, grazie, ciao a tutti. Raccontaci di questo progetto. Noi già agli inizi di marzo, appena abbiamo saputo, abbiamo avuto la tragica per tutti notizia della chiusura delle sale, abbiamo cominciato a pensare come cosa fare, come muoverci, come organizzarci, come reagire, perché era immediatamente chiaro che, insomma, che la cosa non sarebbe risolta in tempi tanto brevi. E quindi devo dire che immediatamente noi abbiamo pensato al digitale, perché comunque l'abbiamo sempre pensato come un complemento alle nostre uscite, non abbiamo mai vissuto la sala virtuale, anche in passato, in tutti gli esperimenti che abbiamo già fatto, come una competitiva rispetto alla sala. E continuo a pensare che la sala sia veramente un'altra cosa, un'altra esperienza, una cosa più importante per il cinema, ma che non debba proprio temere come concorrente la sala virtuale. Sono molto convinta, e continuo ad esserlo anche dopo questa esperienza, di questa cosa. E quindi abbiamo cominciato a esplorare, subito contattando, devo dire, My Movies, perché con My Movies c'è un rapporto, nel tempo abbiamo organizzato tante cose insieme, e siamo quindi partiti con una rassegna, diciamo, gratuita da offrire al pubblico e a noi tutti scossi all'inizio, questo momento di lockdown improvviso, abbiamo detto qualsiasi parte. E quindi abbiamo organizzato Donne Wanted, che era una rassegna appunto orari precisi, una proiezione unica al giorno, cioè un appuntamento nella sala virtuale. E questa modalità, quindi, di creare un appuntamento preciso, un giorno preciso, un orario preciso, a me particolarmente mi è sempre piaciuta, anche con dando la possibilità di chattare al pubblico in sala, di organizzare delle presentazioni all'interno della sala. Era in qualche modo un tentativo di ricostruire una sorta di socialità, convivialità in un momento così particolare, così difficile. Questo esperimento gratuito, diciamo così, è andata molto bene, ma ovviamente non potevamo andare avanti così, perché anche noi eravamo e siamo in difficoltà come tutti i protagonisti della filiera dell'industria cinematografica, quindi dovevamo trovare un approccio che fosse più sostenibile per noi. E abbiamo cominciato a pensare appunto come organizzare uno spazio che ci corrispondesse, quindi abbiamo cominciato proprio anche a pensare come che colore dovessero avere le poltroncine, beh, proprio anche dal punto di vista estetico, anche un logo che fosse comunque veicolasse questo, un nome che veicolasse un po' sempre il nostro spirito, la nostra linea editoriale, che ci fosse tutto un po' dentro, anche nei colori. E poi abbiamo ovviamente cominciato anche ad approcciare da subito gli esercenti, quindi stiamo parlando di marzo, gli esercenti, dicendo loro che questa cosa voleva coinvolgerli, questo progetto voleva coinvolgerli, perché innanzitutto gli esercenti che ci hanno sempre accompagnato lungo il percorso, che hanno sempre selezionato e proposto i nostri titoli nelle sale fisiche. E quindi volevamo da una parte fare questa cosa con loro e non contro di loro, e poi convinti anche del fatto che chi meglio di un esercente che ha una sua sala sul territorio, che ha una comunità di spettatori e che è affiliata, appassionata, chi meglio di loro può comunicare in modo diretto con un pubblico potenziale per un film. E quindi abbiamo fatto una proposta. Allora, salto i vari passaggi perché sarebbe molto lunga. Devo dirti che la prima reazione è stata un po' particolare, nel senso che non mi aspettavo comunque tanta paura, in qualche modo diffidenza nei confronti del cambiamento dalla maggior parte degli esercenti, che hanno manifestato quindi dubbi proprio sullo streaming di per sé come concetto, ma questo lo sapevamo un po' già, sempre stato il nemico numero uno, no? Quindi c'erano domande tipo, ma se noi abituiamo il nostro pubblico ad andare a guardare i film sul piccolo schermo, perché dovrebbero tornare da noi al cinema? Ma quando riapriamo, domande più tecniche come sì, però noi ci attiviamo la cassa di integrazione in deroga, poi non è che questa attività ci impedisce di accedere a questi pochi benefici che abbiamo per andare quando poi la situazione, cioè, non ci sono previsioni di rientri economici da queste piattaforme, non c'erano, sono dei test, degli esperimenti, quindi non si poteva neanche garantire un adeguato rientro, perché per tutti è stato un po' un salto nel buio. E quindi tutto si è un po' rallentato, cercando di risolvere, di dare risposte, di risolvere questioni e di capire anche come gestire la biglietteria, come gestire la questione della SPA, dell'IVA, tutte cose comunque complesse, perché il mondo sta cambiando e il cambiamento come sempre provoca dei scossoni, insomma bisogna adeguarsi, cambiare un po', seguire un po' l'onda, però insomma non è semplice, ci sono sempre degli ostacoli da superare. E ci ho detto, finalmente il 21 maggio abbiamo inaugurato, ce l'abbiamo fatta, inaugurata la piattaforma così come la ce la immaginavamo, con alcune sale indipendenti che non avevano già la loro sala virtuale e che non avevano la propria biglietteria elettronica. Insomma, abbiamo come servizio anche la biglietteria elettronica per chi non ce l'ha, e quindi sono spesso molto sale, molto simile alla nostra di Milano, al Wanted Clan, quindi dei cine club underground, non so, in Roma posso citare The Tour, che aderisce al progetto ed è su Wanted Zone, e poi ce ne sono anche altre, e possono anche, cosa interessante, che la sala può decidere di programmare, di aderire a questo servizio, diciamo così, di piattaforma, anche solo per uno o due titoli, e non chiediamo già matrimoni particolarmente gravosi, eccetera, semplicemente è un servizio che propone il nostro film, non hai la sala virtuale, non hai la biglietteria, ecco qua, ti diamo la possibilità di fare il film e anche ci offriamo questo servizio di, diciamo, di piattaforma, sempre fatto, come dicevo, con iMovies, in quella versione con iMovies, e poi così è stato. Che struttura avete dato all'esperimento? Al momento come sta viaggiando? Innanzitutto nasce per programmare dei film nuovi, cioè non per rimettere online dei film di catalogo, anche perché i film di catalogo sono per lo più già disponibili sulle altre varie piattaforme VOD pure, tipo Chili, Rakuten, tutte le varie iTunes che ci vengono in mente, quindi quelli sono lì già a disposizione e rimarranno lì. Quindi prima cosa è uno spazio per il cinema nuovo, quello che avrebbe dovuto uscire in sala fondamentalmente, oppure che, come nel caso di Alla mia piccola sala, è stato smontato proprio all'apice del suo successo a causa di questo lockdown, quindi che non ha potuto in qualche modo continuare la propria vita distributiva nelle sale fisiche. E quindi siamo partiti proprio con un documentario che si intitola Ad Hoc Call Money PJ Harvey, che avrebbe dovuto uscire a giugno, appunto, che è un, chiamiamolo, documentary road movie molto particolare su PJ Harvey, che viaggia alla raccolta di suoni per poi comporre un album, e ci sono anche delle parentesi all'interno della sala di registrazione, che in qualche modo diventa quasi una performance sonora dove il pubblico può interagire, vedere l'album mentre si costruisce proprio piano piano, quindi molto, film molto bello, molto, molto, molto interessante, che viene da Berlino, che è stato in Italia un'anteprima ai Popoli e anche al Filmmaker, insomma ha fatto vari festival alla fine dell'anno scorso, e questo, diciamo, è il film con cui abbiamo aperto. Poi abbiamo riproposto Alla mia piccola sala, e per l'occasione con un grande evento alla presenza della regista, e una delle cose buone di queste sale virtuali è anche il fatto che, ovviamente, abbattendo le distanze in qualche modo danno la possibilità a persone di tutte le parti del mondo di intervenire, di essere presenti, di dialogare col pubblico. Infatti avevamo la regista di Sama, che non era mai riuscita a venire in Italia, che dialogava con Riccardo Nuri di Amnesty International. Quindi abbiamo fatto comunque un evento introduttivo che ha avuto un tanto successo, infatti siamo partiti col botto. Dal sito vedo che ci sono per ogni film due proiezioni quotidiane. Esatto, abbiamo iniziato con due proiezioni al giorno, solo la sera, poi la seconda settimana abbiamo aumentato, siamo andati a 4, e adesso stiamo passando a 6, abbiamo aggiunto una proiezione mattutina e una pomeridiana. È interessante perché si può acquistare il film corrispondente nell'orario corrispondente, poi una volta attivato in qualche modo il codice, quindi una volta preso posto all'interno della sala virtuale, ci sono comunque 48 ore per poter rivedere il film. E c'è per tutti i riferimenti una sezione apposita nel sito Wanted Cinema. Esattamente, nel sito Wanted Cinema, in home page in alto abbiamo una sezione che abbiamo appunto chiamato Wanted Zone. All'interno della pagina ci sono tutte le locandine, i trailer del film e tutto, e si trovano anche in home page tra tutti i nostri film, diciamo, in programmazione. Wanted Zone, la sala virtuale online. Un saluto e un ringraziamento a Anastasia Plassotta di Wanted Cinema. Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a tutti. Con Daniele Lupi del Cine de Tour, per presentare la sala virtuale del Cine Club e per il documentario in esclusiva In ogni istante di Nicolas Philibert. Daniele, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te. Raccontiamo un po' come uscite da questa lunga quarantena. In realtà non siamo ancora usciti, perché non sono usciti ancora i cinema, non ne sono usciti ancora i teatri. Aspettiamo di uscirne, il 15 giugno ci dovrebbe essere la riapertura delle sale. Adesso parlo per quanto riguarda i cinema nello specifico, con il contingentamento, i contingentamenti previsti, insomma più o meno le modalità con cui abbiamo cercato di resistere e rimanere aperti ai primi di marzo. Però ecco, noi per quanto riguarda il The Tour non sappiamo ancora se riapriremo il 15 giugno o rimanderemo direttamente a settembre, perché avendo una sala da 60 posti con il contingentamento potremmo aprire per 20 spettatori, 20 persone più o meno, e quindi dobbiamo valutare bene se riprendere la programmazione con questo dimensionamento. E magari faremo degli eventi privati o regaleremo qualche cosa, soprattutto ai soci che ci hanno sostenuto con le loro donazioni, perché la quarantena, noi, il direttivo del The Tour e i volontari che ci danno una mano e ci sostengono, l'abbiamo passata con il nostro crowdfunding che abbiamo aperto il 1° aprile. Lo abbiamo aperto perché il The Tour paga un affitto a privati, non abbiamo finanziamenti pubblici, non abbiamo contributi né dalla regione né dal comune, quindi ci siamo sempre sostenuti con gli incassi delle proiezioni e del tesseramento dei soci, lavorando su base volontaria per quanto riguarda la programmazione ordinaria, e quindi abbiamo avuto la necessità di chiedere aiuto ai nostri soci, che fortunatamente hanno risposto in maniera, dire, affettuosa e poco, generosa, energica, immediata, e quindi abbiamo raccolto quello che ci potrà essere utile per pagare gli affitti e utenze per i prossimi mesi, e questo è stato sicuramente gratificante e positivo. Passiamo a questo punto a parlare di questo documentario. Il documentario è in programmazione, che a dirlo, in modalità virtuale. The Tour come sala ha voluto aderire a questa iniziativa della Wanted, che è una distribuzione cinematografica con cui collaboriamo praticamente dalla nostra riapertura nel 2014, quindi un po' per amicizia, un po' perché condividiamo veramente un po' le stesse idee di cinema. Abbiamo aderito all'iniziativa di Anastasia Blazzotti e della sua Wanted. Certo, la modalità virtuale, avere una sala di tour virtuale, no, è un po' antitetico per noi, che nasciamo proprio come luogo di socialità e di aggregazione, però stiamo facendo di necessità virtù, perché anche questo di scegliere tra le sale aderenti a questa piattaforma, scegliere di vedere un film nella sala virtuale di The Tour è anche un modo per sostenere l'associazione, non lo è senz'altro, in più si può avere il piacere di godere di un buon film. In questo momento il film in programmazione sulla sala virtuale sono quattro: c'è il documentario bellissimo su PJ Harvey, A Dog Called Money, c'è il documentario sulla crisi siriana nella città di Aleppo, Forsama, c'è A Voce Alta, che non è un prime, non è un'anteprima, è un film che noi avevamo già proiettato qualche tempo fa, ma è un bellissimo documentario e la coregia è della stessa regista dei Miserabili, per questo la Wanted l'ho riproposto. E poi c'è questo film di Nicola Filiberti, In ogni istante, che è un film del 2018 uscito in Francia nell'agosto del 2018, subito dopo essere passato a Locarno, ed era prevista la sua uscita in sala per maggio, quindi è stata posticipata l'uscita ed è stata poi trasferita nelle sale virtuali. Nicola Filiberti, molti lo ricorderanno per essere regista di Essere Avere del 2002, un documentario poi il suo stile integralista, quindi con riprese senza luci artificiali, senza colonna sonora, in ambienti reali, con persone ovviamente che non sono attori, ebbe un buon successo, una buona diffusione e uscì anche nella collana di DVD dell'Internazionale. E questo In ogni istante ha delle caratteristiche in comune con Essere Avere, perché là si raccontava la scuola, qui ti racconta la professione degli infermieri, no? Questo poi la congiuntura temporale ci può far pensare, no, che ci sia un qualche riferimento all'emergenza in corso, alla retorica che c'è stata su medici infermieri considerati come eroi, non che considerare eroi medici infermieri vuol dire comunque c'è qualcosa che non va, insomma non dovrebbero essere degli eroi nel quotidiano. Però In ogni istante nasce invece da un'esperienza personale del regista, che è stato ricoverato per un suo problema di salute personale per diversi mesi in un ospedale, e da lì ha avuto comunque l'idea, il sentimento, la voglia di raccontare qual è il percorso professionale degli infermieri in Francia, per cui ha cominciato a visitare alcune delle 300 scuole di specializzazione che esistono in Francia, per poi scegliere di girare e filmare gli allievi infermieri di una scuola vicino a Parigi, quindi siamo alla periferia di Parigi, alla scuola di Montreuil, dove ha passato diversi mesi, tipico del suo stile, immersione totale nell'ambiente per poi raccontare quello che si è vissuto. E quindi vediamo e seguiamo questi ragazzi giovanissimi, quindi parliamo di ventenni, 25 anni, c'è qualcuno anche più grande, che iniziano, si approcciano alla professione dell'infermiera, incominciano il loro percorso di studi, e il film nell'arco di 1 ora e 40 ci conduce dalle loro prime esperienze con i manichini fino alla fine del loro tirocinio, dove però già si sono confrontati con la realtà del mestiere e anche quindi le difficoltà delle malattie e anche il fine vita.

alla gestione delle innovazioni, dei cambiamenti, oltre a una forte partecipazione popolare, per cui, per dire, per arrivare ai nuovi asili impiegarono mesi e anni per discutere con le famiglie, fecero convegni, elaborarono un pensiero, e poi gli amministratori, cioè i segretari, i dirigenti, partecipavano direttamente all'elaborazione della novità o della trasformazione, quindi era un lavoro collettivo molto forte, molto meno verticistico rispetto al presente, e di una politica fatta molto più per strada. Anche il discorso di Campus Venuti o di Cervellati che faceva prima Michele era, e lo raccontiamo nel film, si svolgeva molto in mezzo alla città, e quindi non parlano solo degli assessori ma parlano anche dipendenti comunali. Ci lasciate tutti i riferimenti web per seguirlo? È all'interno dell'iniziativa Io Resto in Sala, che vede la Cineteca programmare le sue due sale virtualmente, quindi online. Ci si può accedere dal portale della Cineteca, dalla programmazione normale della Cineteca, come se uno volesse andare alle sale della Cineteca. Da lì c'è il collegamento per la biglietteria e uno sceglie la giornata in cui può vedere il film è sempre alle ore 19, a parte il sabato che è alle 18.30, però insomma in un orario di tardo pomeriggio, e sceglie il giorno di programmazione e acquista il biglietto, che ha dei prezzi molto contenuti, va dai 2,90 ai 3,90, una cosa del genere, insomma comunque delle cifre molto popolari, come si addice a questo film molto popolare. Uno, quando si acquista il biglietto, può vederlo anche fino a un'ora dopo dall'inizio dell'orario di programmazione, okay. E rimane la possibilità di vederlo per 36 ore. Se uno lo interrompe può riprenderlo anche dopo, per dire. Oh, La febbre del fare, Bologna 1945-1980, al Cinema Lumiere Online dal 3 al 6 giugno 2020. Un saluto e un ringraziamento ai registi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Presto, ciao. Con Antonio Turco, regista del documentario Caravaggio 107. Antonio, ben trovato. Buongiorno. Ci racconti di questo lavoro? Di cosa si parla? Caravaggio 107 nasce da un articolo di giornale che ho letto nel pieno dell'estate, mentre mi trovavo ancora in Sicilia, e ho letto di questo sgombero che doveva essere nell'imminente, proprio dopo gli sgomberi che c'erano stati nella capitale, come l'ultimo di Primavalle. E allora entro 24 ore così mi sono ritrovato a Roma per andare a girare, diciamo, in queste due palazzine che sono il complesso di via Caravaggio 107. Era un assessorato alla casa della Regione Lazio che è stato abbandonato 6 anni fa, e da lì poi è stato, diciamo, occupato dal Movimento Diritto per la Casa, che poi, diciamo, gestisce un po' tutte le persone che abitano lì. E la cosa che mi ha colpito è che, così avvicinandomi al complesso, sentivo, diciamo, un po' di lingue straniere, diciamo, di diverse nazionalità. Poi accompagnate anche dal clima estivo, queste voci che uscivano così in un'atmosfera di dopo cena, diciamo, la cosa che mi ha colpito principalmente era il clima di tranquillità e di serenità che si viveva lì. Per presentarmi non è stato molto facile, perché all'ingresso del complesso si erano organizzati con dei turni di un'ora, due ore, e quindi a rotazione c'erano sempre persone che controllavano l'ingresso, appunto per paura comunque anche della polizia o di un imminente sgombero, perché non sapevano mai quando poteva essere. E allora da lì ho chiesto di parlare con la signora Anna, che era un po' la responsabile di questa lotta che hanno intrapreso, di questa difesa. Solo che, insomma, un po' mi dicevano non c'è fuori, allora ho aspettato lì, tanto ero lì apposta per questo, fino a quando poi, dopo 4-5 ore, vedevano che comunque non demordevo, e hanno detto vabbè, è dentro, allora puoi entrare, e mi ha accolto. E appena sono entrato dentro, sia sulla mia destra che a sinistra, mi sono trovato barricate, messe appunto per la paura di un imminente sgombero. Dopodiché, appunto, dopo una breve chiacchierata, comunque hanno capito che ero uno studente del Centro Sperimentale di Cinematografia dell'Abruzzo e quindi comunque il clima un po' si è rasserenato. Da lì ho vissuto un po' con loro, hanno invitato anche a pranzo, poi la cosa che diciamo un po' le sbalorditi era quella che non ero lì comunque come un po' i giornalisti che vanno mezz'ora, un'oretta così per un po' rubare, fare le interviste così per chiudere un servizio, ma comunque ho detto volevo vivere proprio con loro questa lotta e questo senso anche un po' di precarietà, perché anche loro non riuscivano a dormire la sera sapendo che poteva essere in qualsiasi momento lo sgombero. E allora ho vissuto con loro, sono andato insieme con loro al Campidoglio a vari incontri con gli assessori per vedere un po' di trovare delle soluzioni e comunque un po' questo il documentario racconta un po' la vita precaria di questi giorni e di un po' di insicurezza. Com'è la situazione ora dell'occupazione rispetto alle istituzioni? Diciamo sopravvivono, nel senso che è un po' tutto fermo per quanto riguarda gli sgomberi, perché poi comunque anche il periodo in cui c'era questa decisione era appunto fine agosto del 2019 e in cui poi c'è stato, come tutti sappiamo, diciamo la caduta del governo e quindi le direzioni. Che impressioni ne hai ricavato da questa frequentazione? Quella di comunque persone che pagavano l'affitto fino a un po' di anni fa, solo che perdendo il lavoro o comunque chi ha un lavoro precario e fa la badante, è chiaro che con 600-700 euro al mese che può ricavare da questi lavori non si può permettere un affitto, soprattutto diciamo nella capitale. Il caro affitti, certo, è quello che è comunque il problema maggiore di queste persone, che sperano comunque in un'abitazione, in una casa popolare che possa essere affidata. Che giro farà adesso il documentario? E adesso sarà presentato nei vari festival nazionali del documentario, soprattutto rispetto al tema, quindi alle tematiche sociali, e poi diciamo una diffusione, poi dopo appunto i festival si potranno fare proiezioni anche a livello pubblico. Per saperne di più ci sono dei riferimenti web che ci puoi lasciare? Sì, c'è la pagina del Centro Sperimentale di Cinematografia sia d'Abruzzo su Facebook, comunque anche il sito internet della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. E allora ricordiamo il documentario Caravaggio 107, un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Turco. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.